Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. È l'ora della benedizione. Scende la notte, fumano le nebbie dai camminamenti, le buche sembrano riempirsi di spettri e di misteri. Il bianco vapore serpeggia pavidamente prima che osi sormontare i parapetti. Poi lunghe strisce si stendono di trincea in trincea, di buca in buca. Fa fresco, io son di sentinella e sbarro gli occhi nell'oscurità. Mi sento fiacco, come sempre dopo un'azione, e perciò mi riesce duro restare solo coi miei pensieri. In realtà pensieri non sono, ma piuttosto ricordi che m'assalgono nella mia debolezza e mi muovono l'anima in guisa strana. I razzi brillano alti e io vedo una chiara notte d'estate. Mi trovo nel chiostro del Duomo e guardo i cespi di rose fiorenti in mezzo al piccolo cimitero ove sono sepolti i vecchi canonici. Intorno sorgono i gruppi di pietra delle stazioni del Rosario. Non c'è anima viva. Un gran silenzio cinge il rettangolo fiorito. Il sole riscalda le grosse pietre grigie, sicché la mia mano posandovisi ne carezza il calore. Sopra il tetto d'ardesia la verde torre della cattedrale si slancia nel pallido e molle azzurro della sera. Tra le colonnette del chiostro ancora illuminato si indovina la fresca oscurità che soltanto le chiese sanno dare, e io me ne sto lì immobile e penso che a 20 anni saprò le cose mirabili e inquietanti che vengono dalle donne. Il quadro è così stranamente vicino che mi par di toccarlo prima che il lampo del prossimo razzo lo faccia sparire. Stringo il mio fucile e ne rettifico la posizione. La canna è umida, la serro nella mano e ne asciugo l'umidità con le dita. Fra i prati, dietro la nostra città, si alzava presso un ruscello una fila di alti pioppi. Erano visibili da lontano e la chiamavano l'allea dei pioppi, quantunque si allineassero tutti da una parte sola. Già da ragazzi avevamo una predilezione per quei vecchi alberi che ci attraevano con un loro fascino inesplicabile. Per giornate intere, sdraiati alla loro ombra, ne ascoltavamo il sussurro. Seduti sulla riva, abbandonavamo i piedi all'onda chiara e rapida del ruscello. Il puro odore dell'acqua e la melodia del vento nelle fronde dominavano la nostra fantasia. Li amavamo molto davvero, i vecchi pioppi, e l'immagine di quei giorni lontani mi fa battere il cuore prima di scomparire. Strano che tutti i ricordi che tornano abbiano due qualità. Sono pieni di silenzio, e questa anzi la loro virtù più forte, e rimangono tali anche se la realtà fu diversa. Sono visioni mute che mi parlano con lo sguardo e coi gesti, ed è il loro silenzio che mi commuove nel profondo, che mi obbliga a toccare la manica del cappotto o il fucile per non lasciarmi andare in questo abbandono, in questo dissolvimento in cui il mio corpo vorrebbe dilatarsi e dileguarsi verso le misteriose forze che si celano dietro le cose. Le immagini sono silenziose proprio perché il silenzio qui è inconcepibile. Non vi è silenzio al fronte, e il dominio del fronte giunge così lontano che non ci avviene mai di uscirne. Anche nei depositi arretrati e nei quartieri di riposo il ronzio, il sordo brontolio del fuoco lontano persistono nelle nostre orecchie. Non ci si porta mai così indietro che si arrivi a non sentirlo più. In questi giorni poi è stato insopportabile. E il silenzio fa sì che le immagini del passato non suscitino desideri, ma tristezza, una enorme, sconsolata malinconia. Quelle cose care furono, ma non torneranno mai più. Sono passate, sono un mondo diverso, perduto per sempre. Finché eravamo in caserma, destavano in noi una selvaggia e ribelle bramosia, perché erano ancora congiunte a noi, ci appartenevano e noi appartenevamo ad esse, quantunque ne fossimo separati. La loro immagine sorgeva allora con le canzoni che cantavamo marciando alle esercitazioni verso la radura, presso il margine delle foreste profilantisi nere sul rosso dell'aurora. Erano allora un ricordo veemente in noi e da noi stessi evocato. Ma qui in trincea quel mondo si è perduto. Il ricordo non sorge più. Noi siamo morti ed esso ci appare lontano all'orizzonte come un fantasma, come un enigmatico riflesso che ci tormenta e che temiamo e che amiamo senza speranza, forte senza dubbio come la nostra bramosia, ma irrealizzabile, e noi lo sappiamo, un'aspirazione vana come sarebbe quella di diventare generale. E anche se ce lo restituissero questo paesaggio della nostra gioventù, non sapremo più bene che farne. Le delicate e misteriose energie che da esso si trasfondevano in noi non possono rinascere. Noi vi potremmo bensì vivere, circolare, ricordarci in esso ed amarlo e commuoverci alla sua vista, ma sarebbe la stessa cosa di quando guardiamo la fotografia di un compagno morto. Sono i suoi tratti e il suo volto e i giorni che abbiamo passati insieme riacquistano nella memoria una vita fittizia, ma non è lui. Non saremo mai più legati al nostro dolce paese come fummo un tempo. Non era già la conoscenza della sua bellezza né del suo carattere quella che ci attirava, ma un senso di comunanza, questa fraternità nostra con le cose e con gli eventi della nostra vita che ci separava dal resto e ci rendeva un poco incomprensibile anche il mondo dei nostri genitori, perché non so come eravamo sempre e teneramente abbandonati, perduti in quell'amore, e la più piccola cosa ci conduceva sempre su un sentiero dell'infinito. Era forse il privilegio della nostra giovinezza. Noi non vedevamo limiti, il mondo intorno a noi non aveva fine e nel sangue palpitava l'attesa che ci faceva una cosa sola con lo scorrere dei nostri giorni. Oggi nella patria della nostra giovinezza noi si camminerebbe come viaggiatori di passaggio. Gli eventi ci hanno consumati, siamo divenuti accorti come mercanti, brutali come macellai, non siamo più spensierati ma atrocemente indifferenti. Sapremmo forse vivere nella dolce terra, ma quale vita? Abbandonati come fanciulli, disillusi come vecchi, siamo rozzi, tristi, superficiali. Io penso che siamo perduti. Le mani mi si raffreddano, la pelle rabbrividisce. E sì che la notte è tiepida, ma è fredda la nebbia, questa nebbia sinistra che striscia sui morti dinanzi a noi e sugge loro l'ultimo segreto soffio di vita. Domani saranno lividi e verdi e il loro sangue ristagnerà nero. E i razzi continuano a solcare la notte e a piovere luce implacabile sul paesaggio pietrificato, pieno di crateri e freddo come un mondo lunare. Il sangue a fior di pelle porta paura e inquietudine nelle mie idee che si indeboliscono e si confondono, anelando a un po' di calore, a un po' di vita. I miei sensi non resistono senza un po' di consolazione, senza un po' di illusione. Si smarriscono dinanzi alla nuda immagine della disperazione. Un rumore di marmitte suscita in me la brusca voglia di qualcosa di caldo da mangiare. Mi farà bene, mi tranquillizzerà. A stento mi costringo ad aspettare che vengano a rilevarmi. Finalmente torno nel ridotto e trovo una tazza d'orzo. È cotto col grasso e a buon sapore. Lo mangio adagio adagio, ma rimango silenzioso, quantunque gli altri siano di buon umore, ora che il fuoco ci dà un po' di tregua. Thank you. passano i giorni e ogni ora è al tempo stesso inconcepibile e naturalissima. Gli attacchi si alternano coi contrattacchi sul terreno devastato, fra le trincee si ammucchiano i morti. Dei feriti, per lo più, siamo in grado di raccogliere quelli che non sono caduti troppo lontano, ma gli altri giacciono a lungo abbandonati e li sentiamo morire. Ve n'è uno che cerchiamo invano per 2 giorni, probabilmente caduto sul ventre e non si può voltare. Non si spiega altrimenti come non sia possibile rintracciarlo. Solo quando si grida così, con la bocca rasente terra, riesce difficilissimo stabilire la direzione. Avrà preso un brutto colpo, una di quelle ferite rognose che non sono gravi abbastanza da consentire alla vita di spegnersi lentamente in uno stato di semicoscienza, né d'altra parte abbastanza leggere per far sopportare il dolore con la speranza di guarigione. Kat pensa che deve trattarsi di una frattura del bacino o di una pallottola sulla spina dorsale. Il torace non deve essere colpito, altrimenti il ferito non avrebbe tanta forza per gridare. E se fosse colpita qualche altra parte, si dovrebbe vederlo muoversi. A poco la voce si fa più rauca. Essa ha un suono così infelice che potrebbe venire da qualsiasi parte. Nella prima notte 3 volte i nostri sono usciti, ma quando credono d'aver trovato la direzione e si avanzano carponi a quella volta, ecco che la voce sembra ad un tratto provenire da tutt'altro punto. Fino all'alba cerchiamo invano. Durante la giornata si esplora sistematicamente il terreno coi cannocchiali, ma senza risultato. Il secondo giorno la voce si fa più fievole, la gola e le labbra devono essersi inaridite. Il nostro comandante di compagnia ha promesso a chi lo troverà un anticipo di licenza e 3 giorni in più come premio. È uno stimolo potente, ma anche senza di quello faremmo tutto ciò che sta in noi, perché quel gridare continuo e spaventevole. Kat e Krop escono persino durante il giorno. Albert ci rimette il lobo d'un orecchio per una fucilata. Tutto inutile, il ferito non si trova. Eppure si capisce che cosa grida. Da principio non ha fatto che chiamare aiuto, ma durante la seconda notte deve aver avuto la febbre, parlava con la moglie e coi figli, spesso si distingueva il nome di Elisa. Oggi non fa che piangere. Verso sera la voce si spegne in un singhiozzo, ma continua a gemere tutta la notte. Lo udiamo bene ancora, perché siamo sotto vento. La mattina, quando crediamo che sia ormai in pace, ci giunge ancora un rantolo soffocato. Le giornate sono calde e i morti giacciono insepolti. Non possiamo raccoglierli tutti. Non sapremmo che cosa farne. Ci pensano le granate a sotterrarli. Alcuni hanno la pancia gonfia come palloni, gorgogliano, ruttano e si muovono. È il gas di cui sono pieni. Il cielo è azzurro, senza nubi. La sera è afosa e la caldura sale su dalla terra. Quando il vento soffia dalla nostra parte, porta l'odore del sangue greve, dolciastro, nauseabondo, questo miasma di morte delle trincee che pare misto di cloroformio e di putredine e c'è causa di malessere e di vomiti. Le notti sono ora più calme e comincia la caccia agli anelli di rame delle granate e ai serici paracaduti dei razzi francesi. Perché questi anelli siano poi tanto ricercati nessuno sa bene. I raccoglitori sostengono semplicemente che sono preziosi e vi sono certuni che ne caricano in tale quantità da camminare curvi sotto il loro peso quando vanno a riposo. Ai, almeno ci indica un motivo. Vuole mandarli alla fidanzata come surrogato delle giarrettiere. Questa idea ha naturalmente per effetto di scatenare nei bravi frisoni una ilarità irrefrenabile. Si picchiano sulle ginocchia. Dio, com'è buffo quel Haie. È proprio matricolato. Thiaden specialmente non sa contenersi. Ha preso nelle mani il più largo degli anelli e ad ogni istante vi ficca dentro la gamba per mostrare quanto spazio ci avanza ancora. Ah, ragazzo mio, ma che gambe deve avere, che gambe! E il suo pensiero sale anche più su. E che sedere! Un deretano da elefante! Quell'immagine non gli vuole uscire dalla testa. Con che gusto ci schiaccerei le pulci sopra per Diana! Aie, è raggiante che le doti fisiche della sua ragazza incontrino tanta approvazione e replica soddisfatto e modesto. Quel che è da dire, è in gamba. I paracadute di seta trovano utilizzazioni più pratiche. 3 o 4 formano una camicetta a seconda delle misure. Crop e io li adoperiamo come fazzoletti da naso, gli altri li mandano a casa. Se le donne potessero vedere con quanto pericolo vengono spesso raccolte quelle pezzuole, ne avrebbero un bello spavento. Kat sorprende Thiaden mentre, a colpi di martello, cerca in perfetta serenità di staccare l'anello di una granata inesplosa. A chiunque altro la granata sarebbe scoppiata fra le mani, ma Thiaden è sempre fortunato. Per una mattinata intera due farfalle volteggiano dinanzi alla nostra trincea. Hanno ali gialle punteggiate di rosso. Che cosa mai può averle sviate fin qui, ove a perdita d'occhio non si trova né una pianta né un fiore. Si riposano tranquillamente sui denti di un teschio. E uguale serenità dimostrano gli uccelli che da un pezzo hanno fatto l'abitudine alla guerra. Ogni mattina fra l'una e l'altra trincea si levano a volo le allodole. L'anno scorso, anzi, ne vedemmo alcune covare e poi tirar su i loro piccini. I topi ci lasciano tranquilli. Sono andati più innanzi e sappiamo bene perché. Ingrassano. Se appena ne vediamo uno, gli spariamo addosso. Ogni notte nuovamente sentiamo il rullare dei carri dietro le linee nemiche. Ma di giorno non arrivano che i soliti tiri, così che possiamo riparare alquanto le trincee. Non mancano nemmeno le distrazioni. Vi provvedono gli aviatori. Ogni giorno parecchi combattimenti aerei hanno il loro pubblico appassionato. Gli apparecchi da caccia ci vanno a genio, ma quelli da ricognizione li odiamo come la peste perché ci tirano addosso il fuoco delle artiglierie. Appena sono apparsi è una musica di granate e di shrapnels. Uno scherzo di questo genere ci costa in un sol giorno 11 uomini, di cui 5 di sanità. 2 di essi vengono stritolati in modo che, dice Thiaden, si potrebbero raccogliere col cucchiaio e seppellirli in una casseruola. A un altro viene strappata tutta la parte inferiore del busto con le gambe. Giace morto nella trincea, sul petto, il volto giallo come un limone. Fra i peli della barba rosseggia ancora la sigaretta accesa, brilla finché gli si spegne fra le labbra. Depositiamo provvisoriamente i morti in una gran fossa. Vi giacciono già 3 strati sovrapposti. All'improvviso il fuoco riprende a tambureggiare. e ci ripiomba nella fissità dell'attesa inerte. Attacco, contrattacco, urto, resistenza, semplici parole, ma quale realtà racchiudono in sé? Questa volta perdiamo molta gente, reclute per lo più. Al nostro reparto giungono nuovi complementi dai reggimenti di nuova formazione, quasi tutti giovinetti delle ultime classi. Non sono quasi formati, appena hanno potuto fare un po' di istruzione prima di essere mandati in linea. Sanno che cosa sia una bomba a mano, ma appena hanno un'idea di che cosa significhi coprirsi e soprattutto non hanno occhio. Un avvallamento sfugge alla loro attenzione, se non è alto almeno mezzo metro. Quantunque si abbia tanto bisogno di rinforzi, questi poveri figliuoli ci portano più lavoro che aiuto. Non sanno disimpegnarsi in questo terreno così battuto e cadono come le mosche. La guerra di posizione odierna richiede cognizione ed esperienze speciali. Bisogna conoscere il terreno, aver fatto l'orecchio ai calibri, ai loro suoni ed effetti diversi. Bisogna saper prevedere dove vanno a scoppiare, fin dove arrivano le schegge e come ci si protegge. Questi giovinetti naturalmente non sanno quasi nulla di tutto ciò e vengono falciati perché neppure distinguono uno shrapnel da una granata. Ascoltano con ansia l'ululo dei grossi calibri innocui che scoppiano lontano dietro le nostre spalle e non sentono il sibilo leggero delle piccole bestie malefiche che esplodono in mezzo a noi. Come pecore si stringono in un mucchio invece di spargersi intorno e perfino i feriti vengono sterminati dagli aviatori come lepri. Oh, le pallide facce color di rapa, le tristi mani abbrancate, il miserabile coraggio di questi poveri cani che nonostante tutto vanno avanti e attaccano, di questi bravi poveri cani così intimiditi che neppure osano urlare la loro sofferenza e col petto e con la pancia squarciati, con le braccia e le gambe fracassate, non sanno che gemere piano chiamando la mamma e tacciono subito se qualcuno li guarda in viso. I loro volti smorti e aguzzi, con poca peluria, hanno l'atroce assenza d'espressione dei bambini morti. È un'angoscia che prende alla gola vederli balzar fuori e correre e cadere. Si vorrebbe picchiarli, tanto sono stupidi, e insieme prenderli in braccio e portarli via di qua dove non hanno che fare. Portano come noi la giubba grigia e pantaloni e stivali, ma per la maggior parte l'uniforme è troppo larga e balla sulle loro membra. Hanno spalle troppo strette, troppo esili i corpi. Non v'erano taglie adatte per fanciulli di questa specie. Per un anziano che cade, cadono da 5 a 10 reclute. Un attacco improvviso col gas ne falciò parecchi. Non riuscivano a comprendere ciò che li aspettasse. Abbiamo trovato un ridottino pieno di morti con la faccia azzurrastra e le labbra nere. In una buca si sono tolte le maschere troppo presto, ignorando che a fior di terra il gas si mantiene più a lungo. Quando hanno visto gli altri sopra togliersi la maschera, se la sono strappata anche loro e hanno ingoiato ancora abbastanza gas per bruciarsi i polmoni. Il loro stato è senza speranza. Soffocheranno fino alla morte, tra sbocchi di sangue e attacchi di asfissia.